Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata carissimi radioascoltatori di Radio 24 del Gastronauta. Bene, oggi tratteremo un argomento particolare, sempre polemico. Tratteremo di champagne e bollicine italiane. Bene, perché questo? Perché sempre più si sentono paragoni tra questi due prodotti che io ritengo siano completamente diversi, e il fatto che spesso appaiono delle graduatorie in cui si dice l'Italia ha battuto la Francia per le bollicine, non mi trovo assolutamente d'accordo, perché è come mettere le mele con le pere, nel senso che lo champagne è una cosa, altri bollicine francesi sono altra cosa, e così pure quelle italiane. Il prosecco è sicuramente una bellissima realtà, il metodo classico del Trentino, il metodo classico della Franciacorta e tanti altri prodotti metodo classico italiano sono altro, e quindi non è giusto confrontare e fare dei confronti. Sono due prodotti completamente diversi, con le proprie peculiarità, con diciamo le proprie specialità. Ebbene, ora parleremo di questo durante questa trasmissione. Cominceremo a parlarne con un grandissimo esperto, che è il campione mondiale dei sommelier. Chi meglio di lui può parlarci di questo argomento, ed è Luca Gardini. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Luca, tu hai appena presentato l'enciclopedia del vino, che ha avuto un grande successo, addirittura hai fatto una graduatoria sui primi 100 vini mondiali e hai messo al primo posto un porto, quindi un vino portoghese, ma nella tua graduatoria ci sono ovviamente sia bollicine italiane che champagne francesi. Bene, come vedi tu questa querela tra champagne e bollicine italiane? Beh, come hai anticipato tu, penso che basta dire meglio champagne o bollicine italiane piuttosto che Franciacorta o Trento. Io penso che sono due grandi prodotti, che lo champagne è unico, unico per storia, per stile, per caratteristiche, per peculiarità tecniche sia gustative che olfattive, e cresce solo là. Mentre noi in Italia facciamo delle ottime bollicine, degli ottimi medio classico che rispecchiano il nostro territorio, prodotti di grande viabilità e in alcuni casi molto longevi. Devo dire che nella classifica dei 100 vini al mondo sono presenti 4 champagne e una bollicina italiana solo, ma non perché la bollicina italiana è inferiore o è peggiore, che abbiamo raggruppato tutte le tipologie di vini. Come vedi, al primo posto c'è un porto, quindi 100 vini sono veramente pochi nel mondo. Senti, ma se tu dovessi delineare le caratteristiche dello champagne rispetto alle bollicine e viceversa, cioè cosa vedi la grande diversità? Non qualità, allora non voglio fare un discorso di qualità perché, come dico, sono completamente diversi, ma proprio caratteristiche. Ecco, se tu sicuramente hai degustato tantissimi champagne e tantissime bollicine italiane, alla fine cioè di queste degustazioni, queste tante degustazioni, qual è il profilo secondo te dello champagne rispetto alle bollicine italiane? Beh, il profilo dello champagne è un po' più profondo in territorialità, cioè ogni singolo comune, ogni singolo piccolo appezzamento, che sia un Grand Cru, un Premier Cru o un assemblaggio, determina veramente un gusto ben identificativo e netto. Può essere qui crudi Menhir, sono molto più cremosi, più fragranti, quindi c'è la base di Chardonnay, quindi quando vai nella parte della montagna di Reims, dove c'è anche l'utilizzo del Pinot Nero, sono più costruiti, e a seconda dei comuni sono più o meno sapidi, più o meno minerali, più o meno fruttati, più o meno longevi. Mentre in Italia, non che non c'è questo, però abbiamo un po' più di omogeneità, non nel gusto o nella tipologia, ma soprattutto in quello che è il territorio. Franciacorta, che è il cuore della spumantistica italiana, dà eccellenti prodotti, ma anche Trento, dove dà prodotti veramente particolari, soprattutto sulla longevità e la fragranza. Ecco, queste sono le grandi differenze secondo me. Ecco, secondo te, diciamo, durante la giornata, durante, come posso dire, le degustazioni, cioè tu vedi dei momenti in cui vedi meglio lo champagne, dei momenti in cui vedi meglio le bollicine? Io sto parliamo di bollicine metodo classico, sì, in questo momento. Beh, sicuramente sì, devo dire che a mio avviso gli champagne si dividono: o gli champagne di benvenuto, quindi da aperitivo, o io definisco gli champagne da abbinamento o da bevuta, quindi questi grandi champagne complessi, molto longevi, quelli molto strutturati, biscottati. Mentre la Franciacorta o lo spumante Trento, quindi metodo di classe italiana o anche di altre zone, secondo me sono più versatili, riesci ad adattarli un po' più a tutto l'arco della giornata, perché hanno più bevibili, magari su alcune cose sono più immediati. Bene, abbiamo con noi anche Fabio Piccoli, che è direttore del Trento DOC, e quindi con lui vorrei chiederle questo. Cioè, Non è ora di farla finita questa querela tra champagne e prodotto italiano anche a metodo classico? Non ritieni che siano due mondi completamente diversi, due prodotti completamente diversi, quindi non è giusto confrontarli? Ma io direi che ti do completamente ragione, anzi mi sembra un po' una querela un po' da provincialismo culturale un po' tutto europeo, nel senso che sono prodotti molto diversi tra loro, hanno identità e storie diverse, hanno peculiarità uniche e credo che la loro bellezza stia anche nella loro diversità. Io ho questa necessità sempre di doversi catalogare sotto qualche così tetto, non mi è mai piaciuta. Credo che la bellezza oggi del vino, e siamo credo tutti in un mercato anche molto più maturo e consapevole della bellezza di queste diversità, ognuna ha una storia da raccontare. Lo champagne, lo sappiamo, è una storia secolare. Quella del Trento Doc è un po' più recente, ma comunque rimane molto lunga e credo che il bello sia adesso proprio di farsi scoprire dagli appassionati, dai consumatori, senza barricate, anche perché ho la sensazione che il consumatore sia molto più infedele e gli piace anche agire all'interno di questa infedeltà e scoprire cose diverse. E questo è un valore aggiunto importante per tutti. Ecco, tu rappresenti un'area a metodo classico. Volevo chiederti questo: ritieni giusto che ogni anno si facciano, diciamo, questi confronti tra milioni di bottiglie francesi e milioni di bottiglie italiane? Non ritieni che anche in Italia bisognerebbe distinguere, cioè, i dati dello champagne con i dati del metodo classico italiano e non mettere tutti sul mucchio? Ma io devo dire che un po' mi vergogno di questo tipo di classifiche, che le trovo, a parte inutili, perché credo che se la qualità la dobbiamo misurare con i record produttivi sia la peggior cosa che si possa fare. Nello stesso tempo, anche in questo caso, c'è un po' di ingenuità provinciale, nel senso che lo champagne ha numeri che sono decisamente molto più importanti dei nostri. Credo che il metodo classico italiano però abbia intrapreso da tempo una sua strada identitaria e di qualificazione e non si debba misurare all'interno di quanti numeri cresce, ma della qualità e di quanti produttori invece migliorano le loro performance qualitative e ovviamente anche di mercato, perché ricordiamoci sempre che non è il numero di bottiglie ma il valore. In questo senso penso che il metodo classico sia cresciuto molto, ma direi che è arrivato il momento di dire basta a queste quotidiane così storie di recordmen, di numeri che si accavallano, spesso, tra l'altro, diciamo anche la verità, nemmeno corretti, quindi è bene lasciarli perdere. Gardini, volevo chiederti questo sul discorso delle bollicine: sta crescendo molto anche il metodo naturale, molti, diciamo, naturalisti, chiamiamo così, cominciano a produrre appunto bollicine in Italia e champagne in Francia. Tu cosa ne pensi? Che è una filosofia, una loro anche esigenza di identità, di personalità, e le condivido, sono grandi prodotti che hanno delle caratteristiche ben specifiche e ben determinate e questo ne fa di loro un grande prodotto. Io penso che basta anche distinguere qui quella naturale, no, sono dei gran prodotti, ognuno ha la sua filosofia, purché sia vino. Devo dire che questa tipologia, questa filosofia a me piace molto e speriamo che lo portino avanti, perché sta dando ottimi risultati. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine. Bollicine, abbiamo detto champagne e bollicine made in Italy. Diciamo che il tema che stiamo trattando è questo, ma non è ora di finirla di far confronti tra champagne e bollicine made in Italy. Sono due cose diverse, trattiamole in maniera diversa. Non facciamo graduatorie di milioni di bottiglie dell'uno dell'altro per vedere chi arriva primo ogni anno, quasi fosse una gara. In realtà non deve essere così. Parliamo piuttosto di qualità, parliamo di identità, parliamo di differenze, parliamo di territori. Non so se il nostro amico Franco Zigliani, le mille bolle blog e vino al vino, è d'accordo con noi. Sono assolutamente d'accordo, non c'è nessun motivo valido per paragonare un prodotto che ha una dimensione, una storia, un'identità come lo champagne con i vari spumanti, tra virgolette, perché non amo questa parola, metodo classico o Charmat, che vengono prodotti in Italia. Bisogna abituarsi, il consumatore deve abituarsi e l'informazione soprattutto deve abituarsi a chiamare i prodotti con il proprio nome, chiamare champagne come champagne, chiamare cava il metodo classico spagnolo e chiamare in Italia Franciacorta, Trento DOC, Prosecco DOC di OCG, a ognuno con la propria storia, la propria identità. Beh, bisognerà cominciare a parlarle anche della Gran Bretagna, perché diciamo negli ultimi concorsi internazionali insomma ha suonato la carica e i francesi, italiani e spagnoli sono stati messi in secondo ordine. Beh, il fenomeno dei cosiddetti English Sparkling Wine è da monitorare con attenzione, lo dimostra il fatto che alcune maison de champagne hanno investito e piantato dei vigneti nel Sussex. Sono dei numeri ancora ridicoli, anche se sono investimenti importanti fatti in Inghilterra, che erodono mercato allo champagne. Se si vanno a vedere i dati del mercato 2011 dello champagne nel mondo, uno dei pochi mercati significativi e importanti dove lo champagne ha perso qualcosa è stato il Regno Unito l'anno scorso. E soprattutto per merito degli sparkling wines prodotti in Inghilterra, e poi vorrei aggiungere la crisi economica morde ovunque, morde ancora e anche in Inghilterra. Una parte di consumatori inglesi che consumavano champagne, sono sempre 35 milioni di bottiglie circa quelle vendute in Inghilterra, che è il primo mercato estero, sono passati, avendo meno soldi in tasca, a prodotti più risparmiosi, tra cui anche il nostro Prosecco. Bene, ora facciamo un viaggio, andiamo a Parigi, andiamo, come si dice, in terra dei concorrenti. Ma a Parigi c'è un italiano, un sommelier italiano che si sta facendo molto, molto, molto largo, diciamo, tra appunto i grandi esperti, anche perché è andato a casa di un campione del mondo, anche lui. Buongiorno da Alberto Piras. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Che ora è sommelier al ristorante Il Vino di Parigi. Alberto, e allora in Francia come viene vista questa querella tra champagne e bollicine italiane? Ma devo dire che in Francia la bollicina italiana è vista soprattutto sotto forma di metodo Charmat, nel senso che è sicuramente il prosecco a fare da padrone. La terra francese privilegia ovviamente il loro prodotto, giustamente, e devo dire che qua lo champagne è molto molto bevuto e conosciuto. La loro forza sicuramente è stata quella di venderne una denominazione, ancora prima di un prodotto, un metodo di produzione, sicuramente il loro territorio. A Parigi troviamo moltissimi ristoranti, moltissimi bar, una coppa di champagne a un prezzo decisamente accessibile a tutti e a volte anche al di sotto di 10 euro, quindi sicuramente il consumatore è molto invogliato alla consumazione. La bollicina italiana, i nostri metodi classici come Franciacorta e Trento DOC sono ancora un pochettino sconosciuti, però piano piano riusciamo un po' a farli conoscere, anche se, ripeto, lo champagne è sicuramente il ruolo più importante, il ruolo principale. Senti Alberto, voi al ristorante Il Vino avete del metodo classico italiano? Abbiamo un Franciacorta del quale un nostro carissimo cliente e amico, posso anche dire il nome, tanto non ha bisogno di pubblicità, che è Cadelbosco, che proponiamo in un menù che in questo momento è il menù La Strada d'Italia, La Route d'Italie, dove proponiamo il suo Franciacorta al calice. È spesso complicato spiegare che è fatto allo stesso modo di uno champagne e non di un prosecco, ecco, quello è forse un po' anche colpa nostra di come l'abbiamo esportato la bollicina italiana, però credo che con un lavoro di qualità fatto da parte del produttore, di una denominazione, si può comunque far bene. Ecco, ma le reazioni di un consumatore, di un vostro cliente francese a cui appunto sottoponete questi prodotti italiani, il metodo classico, quali sono di solito? Di confronto oppure assolutamente non se ne parla? Ma di confronto se ne parla poco, devo dire, perché la bocca del consumatore francese è molto allenata sulla bollicina e quindi il confronto non è così immediato, nel senso che si pensa subito allo champagne, ma poi si sente veramente che è un prodotto che viene da una terra diversa, fatto con una terza uva che è anche diversa rispetto alla denominazione che c'è qua in Francia, quindi non è sempre giusto, ecco, fare il confronto con lo champagne, e il consumatore stesso non lo fa. Ecco, e cosa, cioè, avete anche sparkling, English sparkling, avete nella vostra carta? Per il momento no, per il momento non ancora, ripeto, già molto difficile vendere la bollicina italiana, se ci mettiamo a vendere anche quella inglese facciamo un po' troppa confusione. Quindi rimaniamo con lo champagne, che comunque rimane il prodotto di punta, la bollicina per eccellenza, credo non solo a Parigi ma credo in tutto il mondo, e continuiamo a proporre i nostri prodotti di qualità lavorandoli in maniera seria, e credo che sia la via giusta per intraprendere un buon cammino. Senti, vado un momento fuori tema, e il vino italiano invece, passiamo ai rossi e ai bianchi, voi ne avrete sicuramente in carta, visto che ovviamente siete due italiani, anche se ormai magari siete francesizzati, ma ecco, il vino è diversa la realtà del vino rispetto alle bollicine? La realtà del vino sicuramente è diversa. L'Italia vanta di vitigni molto importanti come Nebbiolo, Sangiovese per i rossi, Verdicchi per i bianchi, Vitosche, che hanno veramente una tipicità non indifferente, e devo dire che la Francia su questo è molto attenta. Noi facciamo molto lavoro di vino al bicchiere, quindi abbiamo sempre un Nebbiolo, un buon Sangiovese al calice, in modo da proporlo a tutti, e devo dire che i clienti sono molto molto contenti, piace molto i nostri prodotti di territorio, quindi proponiamo spesso delle realtà anche magari piccole in Piemonte, in Toscana, che sono decisamente ben accette dal nostro cliente. Ecco. Bene, rimani con noi, voglio chiedere a Ziliani se concorda con il nostro amico Piras su quelle considerazioni che ha fatto. Ovviamente in Francia abbiamo 100 più possibilità di proporre dei vini rossi dai nostri grandi vitigni che in Francia non hanno, Nebbiolo e Sangiovese o Aglianico, io aggiungerei. Pensare di fare una gara in Francia con la massa critica, con le poche bottiglie che produciamo, perché tutto il metodo classico italiano messo assieme non arriva a 23-24 milioni di bottiglie contro 350 milioni di bottiglie di champagne, 140 milioni di bottiglie consumate di champagne in Francia lo scorso anno, è ridicolo. Sono prodotti, i nostri metodo classico di eccellenza, che soprattutto sono adatti per il mercato italiano. C'è ancora tantissimo spazio per farli conoscere in Italia. Certo, ai produttori piace come fiore all'occhiello essere presenti in alcuni ristoranti stellati e di punta, ma se andiamo a contare il business, è un business ridicolo. Secondo te, prevedendo, facendo una previsione, quale può essere la realtà a Parigi? C'è molta più possibilità di vendere Prosecco in Francia che vendere Franciacorta o Trento Doc o altre cose. Con tanti ristoranti italiani e una presenza anche di sommelier italiani, sicuramente è un prodotto che in Francia non c'è, analogo al Prosecco, e quindi ha un rapporto prezzo-qualità straordinario, ha possibilità, come si è imposto, si sta imponendo in tutto il mondo, dalla Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Giappone, ha possibilità anche di imporsi sul mercato francese. Ma secondo te il futuro delle realtà italiane, oltre Franciacorta e oltre Trento, ci sono altre realtà che stanno emergendo in Italia sul metodo classico? Su piccoli numeri sì, direi Altalanga, sono partiti con clamoroso ritardo, le storiche case piemontesi stanno cercando di recuperare terreno rispetto a Trento e Franciacorta. Ci sono degli eccellenti metodo classico prodotti in provincia di Bolzano, ma tutti i produttori in metodo classico sono 6 o 7 messi insieme dall'Alto Adige, non arrivano a 150.000 bottiglie. Però dimentichi un'altra realtà importante, è l'Oltre Po Pavese. Sì, ma non la dimentico perché la considero così poco che non mi viene molto naturale considerarle. Nonostante sia la regione italiana con più ettari vitati di Pinot Nero, la qualità è quella che è. Pochi produttori fanno qualità. Se andiamo a vedere nelle carte dei vini dei ristoranti stellati, trovare in carta un Franciacorta o un Trento Doc è possibile, trovare un Oltre Po Pavese come trovare un ago in un pagliaio. Beh, ho sentito a un convegno un produttore che ti contestava questa affermazione, dice che ci sono un paio di stellati, sì, che hanno prodotti dell'Oltre Po. Al pescatore ce n'è uno in carta perché questo produttore è un suo importante cliente, non si può dire di no, e mettere 12 bottiglie in cantina non costa niente. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di bollicine, distinguendo tra champagne, metodo classico italiano, ed altri vini spumanti. Io credo che questa differenziazione sia molto ma molto importante. Come ho già detto, ritengo ridicole queste graduatorie che ogni anno si fanno. L'Italia batte per le bollicine la Francia con milioni di bottiglie. In realtà è meglio parlare di qualità, è meglio distinguere appunto tra le varie tipologie di bollicine, come ho detto, distinguendole in vari modi. Allora io chiedo subito se è d'accordo con me su questa, diciamo, distinzione Matteo Lunelli. Bene, Matteo Lunelli Ferrari, quindi sicuramente sarà d'accordo, perché visto Ferrari rappresenta una delle punte avanzate del metodo classico italiano nel mondo. Buongiorno a tutti, assolutamente sì, Davide, sono d'accordissimo con te. Bisogna parlare di differenze, bisogna parlare di personalità diverse. Io credo che il metodo classico italiano e lo champagne abbiano pari dignità, non c'è nessun senso di riverenza, e piuttosto esprimono dei territori diversi, esprimono una tradizione diversa. Mi piace sempre dire, ad esempio, di Ferrari, che noi nel mondo vogliamo rappresentare l'arte di vivere italiana. Le bollicine italiane io credo che debbano sempre raccontare il proprio territorio. Come diceva Soldate, il vino è una poesia della terra, ed è poesia della propria terra, della terra da cui proviene. Nel caso delle bollicine, inoltre, dobbiamo esprimere quello che è il nostro stile di vita, e da questo punto di vista abbiamo una potenzialità straordinaria. Io addirittura voglio enfatizzare, quando parlo di Ferrari all'estero, enfatizzo la nostra italianità, perché credo che sia un elemento molto positivo, perché le bollicine possono andare a braccetto con tutto ciò che si ama dell'Italia, la nostra capacità di avere relazioni autentiche, la nostra capacità di apprezzare il bello e il buono, la nostra tradizione, la nostra cultura. Quindi assolutamente sì, Davide, parliamo di differenti personalità. Bene, ora ritorniamo, abbiamo ripescato il nostro amico Alberto Piras a Parigi. Lo ripeto, Piras è il sommelier del ristorante Il Vino di Parigi, che appartiene al campione del mondo dei sommelier, quindi di 2 anni fa, mi pare, Alberto, vero? Sì, Enrico Bernardo, che è il nostro proprietario, ha vinto nel 2004 il campionato. Ecco Alberto, io ti stavo chiedendo prima, e recupero questa domanda, abbiamo parlato di diverse cose a Parigi, nella ristorazione di Parigi, ma ti voglio chiedere, il prosecco come è visto a Parigi? Ora, senza, diciamo, in generale, visto che tu sicuramente giri, vai a vedere anche altri locali e sicuramente sei molto informato anche con i tuoi colleghi sommelier parigini. Ma probabilmente è più facile trovare un bicchiere di prosecco che un bicchiere di metodo classico in Francia, anche perché è sicuramente più esportato, ed è un vino che possiamo bere con più facilità, che non ha, appunto, non viene sempre paragonato allo champagne. Troviamo magari in qualche baravino o in qualche ristorante addirittura una coppa o una bottiglia di prosecco. Viene, ripeto, viene bevuto con più facilità e meno impegno, quindi anche se ci tenevo comunque a ripetere che è lo champagne che fa sicuramente la padrona, soprattutto in una capitale come Parigi, certo, che è un'ora e mezza da qui, quindi gli stessi produttori vengono loro a proporsi, magari anche piccoli, con le loro macchine e le loro bottiglie, ai ristoranti, per far conoscere i nuovi prodotti, le nuove cuvée. E certo che è veramente, come posso dire, bizzarro quello che successe un po' di anni fa. Mi ricordo all'inizio degli anni 80 Rémy Krugel mi confessò che il maggior numero di bottiglie di champagne Krug non venivano vendute a Parigi, ma in un'osteria di Modena, che poi nel tempo ho scoperto era l'osteria del mercato boario, che poi purtroppo è stata chiusa. E quindi era molto divertente questo spaccato, appunto, tra Italia e Francia. Io ti ringrazio, Alberto, a presto. Grazie mille, a presto. Bene, torniamo a Matteo Lunelli. Secondo te, perché questa grande difficoltà di esportazione del metodo classico italiano nel mondo? Beh, a mio avviso, perché il metodo classico ovviamente è la punta di eccellenza, anche come posizionamento di prezzo delle nostre bollicine. E quindi quando si vuole promuovere un prodotto di eccellenza occorre tempo, occorre impostare una strategia che costruisca un marchio prima di tutto e costruisca una cultura, perché magari prodotti di fascia di prezzo più bassa possono appunto avere nel prezzo una leva nella promozione. Nel caso del metodo classico, nel caso del Trento Doc, nel caso di Ferrari, noi dobbiamo prima di tutto creare una cultura, trasmettere un'emozione, trasmettere una tradizione che convinca i nostri i consumatori nel mondo a sceglierci, e ovviamente ci vuole del tempo. Io credo che però sia questo periodo sia un periodo positivo, sia un periodo ottimo per raccogliere questa sfida. Ripeto, ci sono ancora ci sono ancora tante cose da fare, ma credo che questo rappresenti più che altro una grande opportunità, proprio perché, come dicevo prima, c'è un enorme apprezzamento per lo stile di vita italiano. Tutto sommato anche il successo del Prosecco può aiutare, io credo, poi l'eccellenza delle bollicine italiane, perché avvicina dei consumatori alla bollicina italiana, e poi ci saranno alcuni consumatori magari più sofisticati che avranno voglia di provare delle bollicine più sofisticate. E un po' io uso sempre anche il paragone della moda, in fondo anche la moda italiana oggi siede nel mondo al vertice assoluto. Alcune donne potranno preferire un abito di Chanel, quindi di una stilista francese, altre magari invece un abito di Valentino, di Ferragamo, di Missoni, il nostro grande stilista italiano. Però c'è una consapevolezza che stiamo parlando sempre di alta moda. La nostra sfida è fare questo, cioè portare le bollicine italiane di eccellenza nell'Empireo, e poi lasceremo ai nostri consumatori nel mondo scegliere. Io credo che però ci siano tanti amanti dell'Italia, del nostro stile di vita, e quindi tanti curiosi che abbiano voglia di scoprire quelle bollicine che raccontano i nostri territori. Bene, abbiamo con noi un amico che è Franco Maria Ricci, che è l'inventore, creatore di Bibenda, ma da qualche mese anche produttore di vino, e nonché oggi mi sembra che siano 10 anni della rivista. È così, Franco? Sì, abbiamo fatto questo gioco semplicemente chiamandolo romanzo per celebrare degnamente la nostra rivista, ma semplicemente un gioco che dura oggi e finisce domani, insomma. Beh, comunque non vogliamo essere produttori di vino, anzi, al contrario. Allora non ti senti produttore di vino? Ho sentito tanti termini di vino così sbagliati, no? Lo spumante. E volevo dirti questo, Davide: lo spumante si chiama spumante, è spumante il Prosecco, è spumante la Franciacorta, è spumante il Trento Doc, è spumante lo Champagne, perché la legge di questo Stato dice che è spumante, quella metodologia di vino. Quindi chi chiama bollicine questa roba la denigra. Per me bollicine non può essere chiamato un Giulio Ferrari bollicine, significa trovare il morbillo nel giorno, cioè, mi ricorda il morbillo da bambino, è bollicine, non mi ricordate. Ma questa è una polemica stupida. Quello che invece dico, se me lo permetti, certo, è semplicemente questo: il posizionamento. Cioè, non ci deve essere, secondo me, il posizionamento di uno spumante, perché come fa ad esserci uno spumante del Prosecco che sta a 0,70 euro, oppure di quel Prosecco che invece sta a 22 euro? Io credo che il posizionamento deve essere dei vini di qualità che fanno i produttori di qualità. Non possiamo generalizzare, perché secondo me dire rosso, cioè il posizionamento del vino rosso italiano, ma di quale vino rosso e di quale produttore del vino rosso? Per cui non dobbiamo diversificare tra spumante e vino, tra vino rosso e bianco, cioè dobbiamo posizionare nelle grandi cantine del mondo i grandi produttori italiani, perché non ne usciamo se no, perché se il Prosecco va venduto a 0,70 centesimi nei supermercati e continuiamo a dire che, che fa parte delle bollicine, che fa parte dello spumante italiano, diciamo una sciocchezza. Ma tu mi riporti, diciamo, all'origine di questa trasmissione. Io da tempo vado sostenendo che è ora di piantarla, di fare queste classifiche ogni anno, di mettere tutto dentro allo stesso paniere, mele e pere, e poi dire battiamo i francesi. La ritengo ridicola e stupida questa battaglia che viene fatta, perché in questa maniera si denigra anche, diciamo, le differenze che sono tra l'uno e l'altro, anche perché ognuno di questi spumanti, e purtroppo hai ragione tu, bisogna chiamarli così, escluso Franciacorta, perché Franciacorta di OCG si può chiamare così, quindi come lo Champagne, cioè il territorio che coincide con il nome. Dicevo che ognuna di queste produzioni ha delle sue peculiarità ben precise, e mettendole tutte in un paniere si porta via questa possibilità, appunto, di diversificare e di far capire al consumatore che ci sono differenze non solo nella bottiglia di costo, ma anche da tavola, ma anche di qualitative. Quindi è giusto che ci siano delle differenziazioni e non tutti sul mucchio. Però ti voglio chiedere questo: come spieghi questo grande successo del Prosecco nel mondo? Perché sì, tu hai ragione, si parte da 0,80, però io credo che il prezzo lo faccia sempre il mercato, poi alla fin fine non è che sia un'imposizione del produttore. Lo chiedo a Matteo Lunelli. Matteo, ma secondo te come si spiega il grande successo lo chiedo a un concorrente, non è un concorrente perché è un altro prodotto, però tu che giri il mondo lo vedi, cioè ti rendi conto Cos'è successo? Ma il prosecco è una bollicina, uno spumante piacevole, fresco, è fruttato, è semplice, quindi molti consumatori si avvicinano al prosecco e il prosecco piace, quindi è oltretutto, come dicevo prima, anche un posizionamento di prezzo interessante, quindi tutto insieme crea un'offerta che è attraente per il consumatore. Tornando a quello che si diceva prima, effettivamente accetto anche il commento di Franco Ricci: quando si parla di spumante si dovrebbe parlare di spumante perché la legge parla di spumante. Ora il problema è che in alcuni paesi nel mondo purtroppo la parola spumante è spesso associata a qualcosa di dolce e qualcosa tendenzialmente di non elevata qualità, e questa è un po' colpa del fatto che l'Italia per anni magari ha esportato dei prodotti non di eccellenza. Oggi noi abbiamo tanti prodotti di eccellenza che rappresentano territori diversi, e quindi la sfida è quella di creare una cultura dello spumante italiano tale per cui un domani negli Stati Uniti il consumatore possa comprendere che esistono degli spumanti italiani dolci, magari lasti, che esiste il prosecco, ma esiste anche il metodo classico, ad esempio il Trento Doc, e che ciascuna di queste bollicine è diverso. E quindi la nostra sfida personalmente ritengo che sia quella di creare cultura. Trento Doc ad esempio vuole essere espressione di un territorio, un territorio che è estremamente diverso perché è rappresentativo di un'agricoltura di montagna, ed è l'agricoltura di montagna che noi facciamo che dà lo stile ai nostri vini. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di champagne, di metodo classico, di metodo Charmat. Insomma, abbiamo un po' fatto un excursus per capire appunto questi stili diversi, questi modi diversi di interpretare le bollicine, non solo, ma i territori e anche un certo stile di vita. Io voglio chiedere a Franco Maria Ricci cosa ne pensa del successo mondiale del Prosecco. Secondo te quali sono state le motivazioni così che hanno veramente, come posso dire, fatto irruzione di questo vino un po' in tutte le tavole del mondo? Un successo forse che è inspiegabile all'inizio, ma oggi è una realtà veramente importante. Ma certamente il prezzo, no? È chiaro che il 90% è sfonda con tutti i prezzi possibili del nostro vino nel mondo, quindi è chiaro che non è... È appetibilissimo un prodotto così italiano, così di provenienza di quel particolare territorio, come si diceva, e quindi è sicuramente il prezzo. Quindi tu vedi lo spumante italiano di grande qualità, mi riferisco quindi al Trento Doc, 7-8 aziende del Trento Doc, è una ventina di Franciacorta. Si riferisce esclusivamente a prezzi elevati, comunque a prezzi elevati rispetto a quello che è il prosecco, comunque quello che è possibile trasferire all'estero. Quindi tu dici è il prezzo e non la piacevolezza, anche la diversità forse di questo prodotto, o no? È molto diverso dallo spumante francese, è chiaro ed evidente che adesso il motivo per cui uno prende una bottiglia di prosecco al posto di un grande spumante, esistono anche dei grandi prosecchi, intendiamoci, quindi esistono del metodo classico molto interessanti, ce ne sono molti, quindi diciamo che la stragrande maggioranza, diciamo, che avvicina il possibile acquirente è il prezzo. Io sono convinto di questo, come no. Bene, Franco, diceva prima dell'espressione del territorio, il prosecco è l'Italia del vino, il territorio è ben altro, cioè è il territorio, noi abbiamo, non abbiamo una cucina francese, noi abbiamo 1000 cucine italiane, e così come abbiamo 1000 tipologie di prodotti di vino, ma se Lucio Tasca dal Merita fa uno Chardonnay che sa di Zagara, ma mi dite come fa a essere un vitigno internazionale la Zagara? È così il territorio, è così il territorio dello spumante. Spumante sono diversi territori, d'accordo, ma in effetti è la piacevolezza dello spumante, è il piacere di bere uno spumante a tutto pasto, che non ce l'hanno tutti, ce l'hanno determinati clienti, determinati produttori di vino. Ecco, io ti ringrazio, grazie Franco, bene, grazie e buon anniversario allora, buon 10 anni di Bibenda, che tu sai è una rivista che io apprezzo molto, non solo per i contenuti ma anche per una bellissima grafica. Ciao e a presto. Bene, abbiamo parlato finora di tanti metodologie, appunto, metodo Charmat, metodo classico, abbiamo parlato di Prosecco, abbiamo parlato di spumanti classici, ma abbiamo parlato di Franciacorta, di OCG, ma abbiamo parlato anche da Parigi con il nostro amico Alberto Piras di Champagne. E allora io volevo chiedere, abbiamo qui con noi Gianluca Bisol dell'azienda Bisol, appunto nota per la produzione del Prosecco. Ecco, gli voglio chiedere questo. Ho chiesto a Franco Maria Ricci, che ci ha lasciato Aurora, qual è secondo lui la chiave del successo del Prosecco. Lui dice essenzialmente è stato il prezzo. Io so che tu non concordi con questa ipotesi. Direi che non è l'unica chiave di successo. Ovviamente il prezzo ha la sua fondamentale importanza per attrarre un primo interesse, ma se poi dietro al prezzo non c'è una qualità, ovviamente una volta fatto un primo esperimento non si ripete la cosa. Invece nel Prosecco i numeri confermano che la cosa si sta ripetendo, e quindi oltre al prezzo probabilmente c'è anche una qualità. E a Valdobbiadene bisogna dire che il know-how intorno al mondo delle bollicine si è elevato moltissimo, tanto che è preso a esempio in giro per il mondo, e tanto che i tecnici di Valdobbiadene vanno ormai a fare spumante in tutto il mondo. Bene, Maurizio Zanella è presidente del consorzio Franciacorta di OCG, ma anche produttore di Cadelbosco. Maurizio, io dall'inizio di questa trasmissione ho spinto su un mio concetto, che bisogna farla finita di mettere le pere con le mele in un paniere, cioè tutto quello che è spumante a 360 gradi, per poi dire battiamo i francesi in milioni di bottiglie, che invece bisognerebbe essere rigorosi, far capire al consumatore che esistono diverse tipologie, che c'è il metodo Charmat, c'è il metodo classico, ci sono vini completamente diversi, ci sono vini dolci, insomma c'è un mondo completamente diverso, e secondo me in questa maniera diamo anche al mondo e diamo all'esterno una rappresentazione che non è quella della realtà italiana. Beh, è un concetto che, come credo tu sappia, ma credo anche molti degli ascoltatori conoscano la mia posizione, che da tempo è contro questo tipo di calderone in cui si vuole confrontare una produzione nazionale rispetto a una d'Oltralpe singola, oltretutto, perché è una lotta impari e ingiusta. Noi dobbiamo valorizzare non dei metodi, ma dei territori, esattamente come fa il vino. Noi apparteniamo al mondo del vino e la tipologia di produzione non significa assolutamente nulla. Quindi è inutile che continuiamo a parlare di metodo, di spumante, di bollicine, tutti questi termini assolutamente inutili. Il Prosecco è il Prosecco, ha la sua identità, ha la sua figura, ha il suo prezzo e ha il suo valore. Il Franciacorta ha il suo, e andiamo avanti. E chi mi dice che bisogna fare massa critica, unirsi perché separati? È il mondo del vino che è così, sono le regole del mondo del vino di qualità. Il mondo del vino di qualità è legato in maniera imprescindibile al territorio da cui il vino nasce, la Borgogna, il Chianti, il Brunello, e noi siamo diversi, facciamo un prodotto diverso. No, facciamo un vino importante, che ha delle valenze tanto quanto, se non superiore, a quelli rossi o a quelli bianchi, e quindi chiamiamo questi vini per il loro nome, che è esattamente il nome del territorio da cui essi nascono. Ecco, tu che giri molto e sicuramente conosci la realtà dei vari mercati da anni, ti chiedo perché la grandissima difficoltà di esportare metodo classico. C'è qualche motivazione? Io capisco in Francia, ma anche nel resto del mondo, cioè non è che sia facile il metodo classico da far apprezzare, da far conoscere. Assolutamente no, perché esiste un'appellazione che da 300 anni ha un predominio ed ha un monopolio dei mercati, ha un nome importante, ha una qualità radicata, ha un fascino, e noi dobbiamo costruire tutto. Abbiamo solo 50 anni e quindi facciamo fatica. A differenza del Prosecco, in più abbiamo il problema del valore, che in termini economici è superiore, quindi abbiamo anche l'aggravante di avere un prezzo che ormai è in linea con quello dei cugini d'Oltralpe, e questo crea evidentemente una barriera d'accesso molto più difficile. Volevo chiedere a Bisol, questo grande successo del Prosecco nel mondo, ho visto che c'è, ormai le aziende sono cresciute veramente a dismisura, il numero delle bottiglie cresce, ma con l'andare del tempo non è che ci possa essere uno scadimento della qualità tale che faccia perdere questa spinta, diciamo, verso la conquista dei mercati? Beh, il rischio rischio è sempre dietro l'angolo in qualsiasi caso di successo. Devo dire che però il Prosecco negli ultimi 3 anni, 4, ha fatto un'evoluzione in tal senso davvero interessante, perché in un territorio, in un segmento di prodotto che ha avuto un enorme successo, facilmente di solito non si accettano regole, invece qui si sono create molte regole negli ultimi 36 mesi, tanto che oggi il Prosecco DOC, Prosecco Superiore, il Cartizze sono certificati ad ogni livello, e addirittura alcune scelte che erano totalmente facoltative sono state prese anche a limitare le possibilità di frodi, quindi per esempio la fascetta numerata su ogni bottiglia anche nella versione basica del Prosecco DOC. Bene, a me non resta che augurare a tutti buona Pasqua e magari con una bottiglia distinta, magari metodo classico a tutto pranzo, poi oppure anche Prosecco e magari sul finale con un moscato dolce con la colomba. Buona Pasqua a tutti dal Gastronauta.